Stai ascoltando fuori o Mario cose mai sentite? La cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui da Mario ce ne so 100. Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba. Sempre 100. Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio. Cosa succederà dal 4 maggio? Per le due settimane successive, quindi fino al 18 maggio. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Avremo una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento, gli spostamenti. Devi stare lontano da me. Non mi fare incazzare. In Cina, un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Devi stare lontano da me. Quindi rimarranno, per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della regione, le motivazioni, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. All'interno della regione sono questi gli spostamenti. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Io sono tuo padre. Siamo consapevoli che molte famiglie sono state separate, molti nuclei familiari, genitori con figli, figli e nipoti con nonni. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Questa città sta andando verso un disastro di proporzioni bibliche. Cosa intende per bibliche? Sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche. E la massa, che cos'è? Ma... la massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente. Eh sì, ho capito. Vogliamo quindi consentire loro delle visite, ma attenzione, saranno visite mirate, fatte nel rispetto delle distanze, con l'adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento. Non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti al 4 maggio party private. Terapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Scherziamo. Siamo a bordo di una volante della Polizia Locale di Roma. Faremo un giro insieme a loro per controllare che le attività commerciali stiano seguendo le direttive dell'ultimo decreto in tema di coronavirus. Ancora. All'interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso. Ecco qua. Che tattica adopererete? Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B zona, sta per bis zona, cioè due volte zona, come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. No, perché volgarità ve dico io cos'è la volgarità. No, te lo dico subito. La volgarità è coloro che mentono al cittadino, la volgarità è la finta bonomia. Queste sono volgarità. Io se mando a fanculo uno, certo. dimmi te la parola stronzo quale sinonimo. Ma no, ma nulla. Non dà sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo. La pelle sta aspettando, la guarda più. È un nodo, è difficile andare giù. Fumo un po', sosto dietro la tanda, cielo grigio piombo. Io non lascio che mi prenda, la come la se conto solo su di me. E già so che Jack sai che Chico fa quel che sa da fare quando amore non c'è. Devo impostare perché tasca manca pure. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Scherzo, non ne voglio più. Salto da zero, so che in qualche modo devo andare su. E so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta facendo del male, sta aspettando un sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi e scaldami. Io sì, voglio solo. Quelli a destra sono gli ombrelloni come li abbiamo sempre visti. Abbiamo una distanza di 3 metri. A sinistra invece ci sono gli ombrelloni dell'estate che arriverà. Questi sono 1, 2, 3, 4. Number one! Number one! Number one! Ancora, i divieti di assembramenti rimarranno, luoghi pubblici ma anche privati. Non consiamo party. Do you like parties? Yeah. Non consentiamo party privati. A giovani, a persone, a donne, a donne, a donne, a donne, a donne. Arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. I hope no bad people show up. La mia regola è questa. Quando tutto sembra essere perduto, bisogna rompere gli schemi, fendere il pubblico. Buonasera, buonasera a tutti! Quando senti che il pubblico si distrae, è distante, è lontano, ecco là, quel punto. Consentiamo l'accesso a parchi, a ville e a giardini pubblici, ma condizionato al rigoroso rispetto delle distanze e al fatto che siano adottate misure per contingentare l'ingresso. Io ho pagato e non mi fanno entrare!